Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ormai qualche settimana fa l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, ha presentato il rapporto Energia-Ambiente, una fotografia che parte da un quadro mondiale dei consumi energetici per poi entrare sempre più nel dettaglio mano a mano che dal mondo il campo si restringe sull'Europa e poi sull'Italia. Ci sono tanti numeri dentro questo report, ma soprattutto l'ENEA in questo documento identifica e direi conferma, dati alla mano, alcune criticità del sistema italiano, di cui vogliamo parlare questa sera, e lo facciamo con il responsabile dell'ufficio studi dell'ENEA, Carlo Manna. Buonasera Manna. Buonasera a tutti. Allora Manna, prima di addentrarci nella discussione, ricordo io qualche numero che voi avete dato in questi giorni. Intanto a livello mondiale abbiamo che nel 2009 il petrolio ha costituito il 33% della domanda primaria, ancora fonte numero uno, seguito dal carbone 27% e dal gas 21%. Le fonti rinnovabili in compenso hanno avuto una crescita media annua dell'1,8% dal 1990 e sono arrivate a soddisfare il 13% dell'offerta primaria di energia mondiale, mentre il nucleare tutto sommato oggi ne soddisfa solo il 6%. Per quanto riguarda l'Italia, resta altissima la fattura energetica del nostro paese, 50 miliardi nel 2010, tendenti a 60 nel 2011, e un altro aspetto importante riguarda la ripartizione degli impieghi finali per settore, dove si vede il peso crescente del settore civile, quindi residenziale e terziario, che passa dal 30% del 2007 al 35,4% del 2010, mentre il settore industriale cala, e l'effetto della crisi, di circa il 5% nello stesso periodo, coprendo alla fine il 23% dei consumi finali, mentre il settore trasporti anche lui cala un pochettino dopo essere già calato abbondantemente nel corso della crisi. E questi sono un po' i numeri dei consumi. Veniamo adesso, caro Manna, alle criticità. Prima di tutto voi segnalate quella della filiera industriale, vero? Esatto, e come avrà visto sul nostro rapporto, ci siamo preoccupati di valutare a fronte di questo aumento straordinario delle installazioni di rinnovabili in Italia, ma soprattutto di fotovoltaico, di valutare come nel frattempo crescesse la capacità produttiva. Di far fronte dall'interno a questa domanda, no? Esatto. E questo è il dato preoccupante, appunto, viene dal fatto che siamo in quest'ultimo anno in tutto il mondo il paese che ha installato più pannelli fotovoltaici, ma anche quello che ha un debito commerciale che è il più elevato e è una differenza notevole dalla media europea. Perché ecco, la differenza tra l'import e l'export, voi la quantificate al 2010 in questo settore del fotovoltaico, è di 11 miliardi. Quindi una bella cifra, insomma. Sì, che se vogliamo potrebbero essere in qualche modo aggiunti ai 50 di cui parlava prima della fattura energetica. Come dire, c'è una dipendenza tecnologica che si aggiunge, che costa 11 miliardi, che si aggiunge a quella energetica. Ecco, questi 11 miliardi sono andati per un quarto in Germania, mentre per più del 40% sono andati in Cina, patria, lo sappiamo, Cina del fotovoltaico. Tutta l'area del sud-est asiatico, quindi i paesi collegati. E qui insomma servono politiche industriali, ricerca, spesa pubblica in ricerca, lo diciamo continuamente, purtroppo invece si vedono solo tagli ormai da anni. Senta, però nel settore del fotovoltaico è tutto perso o c'è ancora qualche speranza? Perché certo che se parliamo della produzione di celle al silicio ormai mi sembra impossibile entrare in competizione con i colossi cinesi. No, certo, intanto vorrei dire una cosa, che una capacità produttiva anche nel settore delle rinnovabili ce l'abbiamo, ad esempio nella produzione di inverter abbiamo imprese che sono la seconda azienda al mondo. Mondiale, esatto, e quindi questo dimostra Power che One. Quando si vogliono fare degli investimenti abbiamo poi la capacità di stare sul mercato. Per quanto riguarda un futuro di queste tecnologie, intanto va sottolineato che la ricerca va fatta a 360 gradi, nel senso che le nuove generazioni di fotovoltaico o comunque di altre rinnovabili non possono essere lasciate alla capacità di ricerca di paesi che investono più di noi, dobbiamo stare all'altezza della situazione. Proprio l'altro ieri abbiamo fatto una puntata dedicata alle nuove tecnologie fotovoltaiche, si sta lavorando sul fotovoltaico tridimensionale, liquido, sferico, trasparente, colorato, di tutti i tipi, ma non c'era una ricerca che venisse dall'Italia. Beh, noi noi qualcosa c'è per la verità, siamo impegnati non su alcuni fronti, ma se non c'è una massa critica di finanziamenti e una capacità di collegare anche delle realtà industriali è molto difficile. Però ecco, nel breve e medio periodo ci sono delle altre opportunità che sono legate essenzialmente a una forte integrazione del sistema fotovoltaico con il sistema delle costruzioni, con l'industria delle costruzioni. Noi siamo forti in quel settore, abbiamo imprese che sono produttrici di componentistica edilizia. Allora pensare a un sistema edilizio che è effettivamente integrato, quindi in cui il fotovoltaico non si sovrappone, non si appoggia su qualcos'altro ma diventa parte integrante dei componenti edilizi, esatto, insomma è lì che dobbiamo andare e quella a lavorare. È sicuramente una strada possibile. Ecco, un altro problema che segnalate è quello della rete, che fa fatica a distribuire questa energia fluttuante prodotta dalle rinnovabili non programmabili come il sole e il vento. Tra l'altro questo è un problema che riguarda le rinnovabili elettriche non programmabili, ma non le rinnovabili termiche, e non riguarda l'efficienza energetica, che non hanno questi costi infrastrutturali nascosti alle loro spalle. Però, alle loro spalle. Forse bisognerebbe puntare un po' più su questi e magari frenare anche un attimo sull'elettrico. Non lo so, lei cosa ne pensa? Ma allora, intanto sull'elettrico è stato posto in modo abbastanza chiaro il problema della rete, il problema degli accumuli, però lei ha sicuramente ragione e sa benissimo che per noi l'efficienza energetica costituisce comunque la priorità assoluta e che siamo anche convinti che la disattenzione alle rinnovabili termiche è stata sicuramente dannosa per tanti motivi, ma anche proprio perché non ha fatto nascere una capacità industriale nazionale in un settore nel quale invece c'era una forte potenzialità già dai primi anni '80. Grazie Carlo Manna. Prego, a presto, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.